Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti di nuovo buona giornata. Oggi ritorniamo a parlare del risparmio delle famiglie italiane. Vi ricorderete, venerdì scorso abbiamo parlato del risparmio postale. Oggi invece andiamo a fare il punto su un altro strumento che sta riscuotendo in questi anni di crisi e difficoltà grande interesse da parte delle famiglie italiane: i conti di deposito. Ricordo che il tema, tra l'altro, dei prodotti di investimento di liquidità è stato anche l'argomento della storia di copertina di sabato scorso di Plus 24. I conti di deposito, dunque, questi salvadanai garantiscono rendimenti molto interessanti, con maggiori garanzie rispetto ad altri prodotti. Un investimento tranquillo, secondo quanto percepito da tutti coloro che l'hanno scelto negli ultimi tempi, capace di garantire un interesse spesso molto maggiore rispetto a quello dei titoli di Stato. In questo momento è indubbiamente così, e con meno preoccupazioni rispetto, per esempio, ai fondi di investimento. È così che le banche, sempre alla ricerca di liquidità, visto che il mercato interbancario è ancora piuttosto rigido, si fanno la concorrenza su questo piano con offerte che vogliono incontrare le esigenze di risparmio delle famiglie e che sono anche e soprattutto quelle di un risparmio garantito nel rendimento, nella solvibilità e anche nella possibilità di riavere indietro subito il denaro se ne ha la necessità. Torniamo dunque a parlare questa mattina con voi, con i nostri ospiti, di questo tema. Facciamo il punto sui conti di deposito, facciamo il punto sulle offerte a disposizione, cercheremo di fare anche qualche previsione per il futuro, perché in questo momento i tassi di remunerazione dei conti di deposito in circolazione sono piuttosto allettanti e interessanti, ma le banche che offrono queste proposte, appunto, saranno in grado di mantenere questi livelli ancora a lungo? E allora confrontatevi con noi su questo argomento all'800240024. Vi chiediamo se vi affidate ad un conto di deposito per la gestione della vostra liquidità, sulla base di quale criterio avete scelto o vi state orientando: remunerazione, vincolo, flessibilità. E oltre al numero verde per naturalmente confrontarvi con noi, avete anche altre opportunità. Ci potete scrivere dei messaggi alle 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure ci potete scrivere anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. I nostri ospiti di questa mattina: Manfredi Urciuoli, direttore commerciale di confrontaconti.it, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E Gisto Franceschi, direttore operativo di Banca Sistema, benvenuto anche lei. Grazie, buongiorno. Al telefono Giovanni Bossi, l'amministratore delegato di Banca IFIS, buongiorno Bossi e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, un'occhiata alla borsa molto rapida, perché il tema di stamattina è molto interessante e piace molto ai nostri ascoltatori che vogliono sapere tutto su come funzionano i conti di deposito, soprattutto tutti quelli che sono nati negli ultimi tempi, che naturalmente, per poter mantenere un alto tasso di fedeltà da parte dei sottoscrittori, vincolano appunto questi depositi, chiaramente con il patto di avere in cambio una remunerazione più alta. Poi ci sono anche delle novità sulla tassazione di questi prodotti di investimento che sono intervenute dall'inizio dell'anno, quindi ci sono tante cose da spiegare. La borsa è negativa in questo momento, Milano perde lo 0,3%, un po' meglio del nostro ultimo collegamento di circa 10 minuti fa. Ci si aspettava magari un rimbalzo rispetto alle cadute di ieri, invece questo rimbalzo fallisce. Insomma, il mercato preferisce ritornare su una direzione di prudenza rispetto all'andamento buono delle ultime giornate, andamento che era stato determinato dalle iniziative di stimolo monetario, dalla Federal Reserve, anche della Banca Centrale Europea con il piano antispread, e poi, come ricorderete, ancora la famosa decisione della Corte Costituzionale tedesca di dare il via libera al fondo salva stati. Stamattina nuove iniziative di stimolo monetario molto importanti sono state lanciate dalla Bank of Japan, dalla Banca Centrale del Giappone. Listino giapponese ha chiuso con un rialzo dell'1,2%, ma l'effetto in Europa è stato molto poco rilevante di queste misure, e infatti abbiamo il segno meno ovunque: Parigi meno 0,10, Francoforte meno 0,04, Londra in questo momento sulla parità, l'euro sul dollaro a 1,3022, spread fra BTP e Bund sotto i 340 punti base. Volevo segnalarvi un'altra cosa prima di partire con il tema di oggi. Oggi il Sole 24 Ore pubblica un libro che si chiama Junior 24, per spiegare i segreti dell'economia ai ragazzi. Il libro è praticamente la raccolta di tutti gli articoli articoli su questo argomento che nei mesi passati sono stati curati e pubblicati da Fabrizio Galimberti, un editorialista del Sole 24 Ore, con un racconto coinvolgente, parole semplici e vignette didascali che insomma si spiegano tutti i segreti della finanza ai giovani e ai giovanissimi, e soprattutto partendo dalle domande più dirette e spontanee che il confronto con l'attualità fa sorgere nei giovani. Lasciamo dunque tutti questi preamboli, andiamo al tema di stamattina, facciamo il punto sui conti di deposito. Il rendimento certo, la tutela del capitale investito, l'assenza di spese. Sono tutti i punti di forza dei conti di deposito, uno strumento sempre più gettonato dagli italiani, che con l'incertezza crescente sui mercati sentono il bisogno di dormire sonni tranquilli e mettere il proprio risparmio al sicuro. Quella di parcheggiare il proprio gruzzolo affidandosi ad uno di questi prodotti è infatti percepita come una scelta che espone a pochissimi rischi e ad una serie di vantaggi e rassicurazioni. Gli interessi offerti crescono con l'aumentare del vincolo temporale al quale le somme depositate sono soggette e attualmente si spingono anche fino al 5% annuo lordo. Da gennaio 2012 la tassazione applicata su questi prodotti è scesa dal 27 al 20%. I conti deposito sono però soggetti al superbollo, così come accade agli altri strumenti finanziari. Per il 2012 si tratta di un'imposta dello 0,10% annuo, che salirà allo 0,15% dal 2013. Oltre che alle banche, che sentono sempre di più l'esigenza della raccolta di liquidità, questo strumento risulta ancora particolarmente gradito ai risparmiatori, che preferiscono le garanzie agli alti rendimenti. Anche nella remota eventualità che l'istituto bancario non sia più in grado di restituire il saldo, i conti di deposito sono infatti assistiti, così come i conti correnti, dal fondo interbancario, che assicura una copertura fino a 100.000 euro. Stanno già arrivando molte domande da parte di molti ascoltatori e quindi abbiamo anche stamattina colto nel segno da tempo. Le famiglie italiane stanno cercando di capire come parcheggiare al meglio la liquidità, perché in molte hanno scelto di non bloccare il proprio risparmio per periodi lunghi, e quindi insomma questi parcheggi, quali sono i migliori in circolazione e come fare anche ad orientarsi in questo mercato che si è molto affollato. Perché Manfredi Urcioli, direttore commerciale di confrontaconti.it, tutte le banche hanno lanciato il proprio prodotto di deposito negli ultimi tempi, non si sono volute certo lasciar perdere insomma queste occasioni. Sì, un po' tutte le banche si sono trovate costrette. Ha utilizzato la parola giusta, direi. Sì. Ad entrare nel mercato, qualcuna per difficoltà di liquidità, qualcun'altra probabilmente per rispondere all'aggressività di altre banche che in qualche modo stavano drenando liquidità dai conti dei propri correntisti. E gioco forza, un po' tutte sono entrate nel mercato, un mercato attualmente molto competitivo, molto dinamico, che vede la nascita di nuove prodotti quotidianamente, nuove offerte, prodotti che si differenziano, cercano di diversificare e c'è molta più possibilità di scelta per gli utenti. Cioè, sembrano passati secoli da quando parlavamo solamente di conto arancio qualche anno fa ed era veramente l'unico presidio di questo segmento del nostro mercato. Sì, effettivamente sì, un tempo la parola conto di deposito in Italia non esisteva probabilmente, era sinonimo di conto arancio. Ora vediamo che gli utenti cominciano ad essere più informati, hanno più conoscenze e vanno a cercare conti di deposito in generale. Quali sono le remunerazioni più interessanti? Poi magari faremo nomi e cognomi delle banche, ma magari partiamo proprio dai tassi di rendimento riconosciuti dai conti di deposito in Italia. Quanto si spingono verso l'alto? Beh, sulle durate durate che vadano dall'anno in su si può tranquillamente ottenere dal 4,5% fino al 5%. Tutto lordo naturalmente, sì. Tutto lordo, esattamente. C'è poi una tassazione del 20% su questi interessi. Quindi questo è sicuramente un tasso piuttosto interessante. E bisogna dire che poi ci sono anche dei prodotti liberi, non vincolati, che offrono comunque dei tassi sugli stessi livelli, un po' inferiori, ma comunque sia abbastanza interessante anche in quel caso. Un'ultima cosa, poi vado agli altri ospiti, non le ho fatto raccontare che cos'è confrontaconti.it, così magari raccontiamo anche ai nostri ascoltatori che cos'è questo comparatore di offerte, nella sostanza. Confrontaconti è un comparatore, un aggregatore. All'interno di Confrontaconti è possibile trovare le offerte di diverse banche, convenzionate e non, ed è possibile confrontarle a partire da determinate condizioni di ricerca, che sono l'orizzonte temporale e l'importo depositato nella sostanza. Cerchiamo di fare anche informazione, poi ci sono delle guide utili per gli utenti che volessero informarsi. Certo, no, tra l'altro ho dato anche un'occhiata, si può inserire un importo teoricamente disponibile da poter investire utilizzando naturalmente, andando a guardare effettivamente il conto di deposito, e poi da lì, se uno trova l'offerta che fa il caso suo, può andare direttamente sul sito della banca attraverso un link attraverso di voi. Esattamente, attraverso un link, oppure lasciando i dati all'interno del nostro sito, e poi viene guidato all'apertura del conto. Benissimo. Egisto Franceschi, direttore operativo di Banca Sistema, anche voi vi siete lanciati negli ultimi anni appunto su questo mercato, chiamiamolo così, certamente cercando di cogliere le esigenze nuove delle famiglie e dei risparmiatori italiani. Ancora per fortuna un po' di risparmio c'è in Italia, anche se molti si lamentano che effettivamente invece devono erodere al risparmio, non ce la fanno più ad arrivare alla quarta settimana del mese, però le famiglie italiane ancora qualche cosina, magari rinunciando ad altro, riescono a metterlo da parte e lo vogliono avere subito a disposizione, quindi per questi motivi hanno scelto il conto di deposito. Cosa raccontano i vostri osservatori? Beh, noi abbiamo lanciato il conto deposito quasi esattamente un anno fa e abbiamo visto una grossa crescita continuamente da un mese all'altro, e continua a crescere. Vediamo che i nostri clienti sono molto interessati a parcheggiare i loro soldi lì, sapere che sono tranquilli, che hanno un rendimento certo, e continuiamo a vedere nuovi depositi. Perfino ad agosto, che normalmente è un mese molto tranquillo, abbiamo visto una crescita dei depositi. C'è da dire che ad agosto un po' tutti avevamo fatto del terrorismo psicologico perché pensavamo che potesse replicarsi quello che è accaduto lo scorso anno, per cui effettivamente molte famiglie hanno voluto magari andare in vacanza tranquille e hanno disinvestito da altro, con un po' di chiaramente anche scontento da parte, non lo so, dell'industria del risparmio gestito, e quindi hanno scelto appunto prodotti immediatamente liquidabili. Per la verità l'esperienza di Banca Sistema è anche abbastanza particolare, perché voi fondamentalmente nascete come riferimento per le imprese e gestite i loro crediti problematici, soprattutto quelli con la pubblica amministrazione. Poi come c'è stata l'evoluzione per il pubblico retail? Esatto, noi nasciamo come banca che vuole aiutare le piccole, medie e anche grandi imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. Per farlo abbiamo bisogno di liquidità per poter aiutare le aziende, allora abbiamo lanciato un conto deposito che ci permette di raccogliere questi fondi da usare verso le imprese, con un prodotto semplice e lineare che dia dei rendimenti molto interessanti ai risparmiatori. Si conto, si chiama, lo ricordiamo, così almeno poi ci racconterà quali sono i vincoli, quali sono anche magari le scadenze più apprezzate da parte dei risparmiatori. Giovanni Bossi, Banca IFIS, ancora buongiorno anche a lei. Al dottor Bossi voglio invece far raccontare quello che hanno fatto negli ultimi mesi, perché per la verità, a parte il fatto che era abbastanza evidente l'esigenza che c'era tra i risparmiatori italiani, quella di avere questo parcheggio, soldini immediatamente disponibili, e se io però li accantono per un po' voglio avere una remunerazione interessante, ma voi avete voluto proprio esplorare in maniera molto accurata le rinnovate esigenze dei risparmiatori italiani, e naturalmente vi siete mossi sui social network. Cosa è successo? Qualcosa di assolutamente che ci ha sorpreso, devo dire la verità. Noi ci siamo trovati, abbiamo iniziato l'esperienza sui conti deposito sin dal 2008, siamo arrivati immediatamente dopo, un bel po' dopo, ma tra i primi subito dopo Conto Arancio, ecco, diciamo. Con dei conti che erano vincolati in parte e in parte liberi. Sui vincolati il mercato ci chiedeva, i consumatori ci chiedevano di fare qualche cosa, un passo in avanti. Dopo un anno fa circa, dopo un'approfondita riflessione interna, abbiamo lanciato una richiesta al mondo dei social, su Facebook e anche sui altri siti, di dirci cosa preferivano. Ne è nato un prodotto decisamente innovativo che è Rendimax Like, la parola strizza evidentemente lo richiama Facebook, ecco, infatti, certo, così, certo. Non c'è bisogno neanche di girarci che intorno. Fatto, che coniugava un alto rendimento con un concetto di libertà chiamata, nel senso che Like oggi è disponibile alla chiamata del cliente con 33 giorni di preavviso, rendimento molto alto perché va al 4%, e la cosa che ci ha sorpreso è stata innanzitutto la reazione del consumatore, dei clienti, degli amici che ci hanno seguito e risposto in maniera massiva. Ma soprattutto poi la risposta di fatto del mercato. Oggi abbiamo metà delle nostre somme raccolte che sono depositate sull'AEC e parliamo di cifre. Non è un mi segreto, spiega meglio parliamo. Come funziona la possibilità di svincolarlo in 33 giorni, perché il mediamente cliente, per svincolare un conto di deposito ci vogliono così tanti giorni? Il cliente, questo è un conto libero a chiamata, noi remuneriamo il 4% questo conto, ma il cliente che lo vuole deve chiederselo 33 giorni prima. Quindi ha il vantaggio della cioè, mi faccio l'esempio, libertà. Se io avessi 5.000 euro adesso, io la chiamo e le dico: dottor Bossi, voglio aprire questo conto like, cioè quindi le do la disponibilità di questi 5.000 euro, che cosa vuol dire che ha chiamata? Vuol dire che se lei vuole avere di ritorno, utilizzare le sue somme senza alcuna penale e con rendimento 4% sino al giorno in cui le vengono rese, lei chiama 33 giorni prima. Oggi che giorno è? Oggi è 19 di settembre, diciamo che al 22 di ottobre, immagino, lei ha i soldi disponibili sul suo conto. Quindi il vincolo non c'è, è una chiamata che blocca 33 giorni di disponibilità per 33 giorni, ma il vantaggio di un tasso di interesse che è il 4%, sì, che sì. È straordinario su una durata di questo tipo. No, mi incuriosisce il fatto che, per la verità, io adesso per capirlo le ho dovuto fare 3-4 domande, mi incuriosiva il fatto che invece in realtà nella platea di coloro che frequentano i social network le avessero fatto una richiesta di questo tipo, cioè che avessero bisogno di un prodotto di questo genere. È nata da dialogo, però è nata di questo tipo, ma è successo che ha avuto, è stata clamorosa, insisto, metà, più di metà, più del 50% della nostra raccolta oggi è fatta con questo strumento. Eccoci ancora insieme a Salvadanaio. Salvadanaio oggi torna ad esplorare il mondo dei conti di deposito, soprattutto per capire quali sono le offerte più recenti, come si sta muovendo l'industria bancaria. Tra l'altro qualche banca ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, altre invece loro malgrado hanno dovuto presidiare anche questo segmento, magari preferendo invece fare altro, ma ormai a questo appello non si poteva più mancare. Tutte le banche stanno proponendo appunto un prodotto di deposito per soddisfare la propria clientela. Le remunerazioni sono differenziate, anche le condizioni, e adesso ne stiamo parlando questa mattina con due banche appunto che hanno queste offerte, e insieme a noi anche confrontaconti.it per darci un'idea generale di questo mercato. C'è un ascoltatore, Nicola da Pescara, che scrive: secondo me il migliore è quello di Deutsche Bank, presti tempo al 4% senza vincoli di alcun genere, tutto completamente online. Abbiamo indagato però Manfredi Urciuoli, non è esattamente un conto di deposito questo prodotto, ci risulta che sia un pronto controtermine. Non mi risulta essere un pronto controtermine che a differenza dei conti di deposito non è tutelato dal fondo interbancario di tutela, quindi è un prodotto un po' diverso, un prodotto di investimento. Allora, andiamo invece ad un'altra domanda, Roberto, poi sentiremo anche gli ascoltatori pronti ad intervenire in diretta. Questa è per Banca Sistema, per Egisto Franceschi. Banca Sistema ha un buon conto di deposito, lui sostiene che invece ci sia un problema, che è quella che si riferisce alla gestione online del conto, per non so quali aspetti della gestione, dottor Franceschi. Roberto dice: occorre usare il fax per ritirare soldi, andare in banca per fare i bonifici di deposito. Potreste velocizzare un po' di più l'operazione, visto che gli ascoltatori lo chiedono? No. In realtà non è corretto. Sugli svincoli si può fare via fax, si può fare anche via email. Lo facciamo per tentare di proteggere anche i clienti che magari hanno qualcun altro che li chiede. O per scoraggiarli? No, scoraggiarli no, perché basta mandare un'email e noi il giorno dopo facciamo lo svincolo, quindi siamo molto rapidi. Invece i bonifici si possono fare online come si vuole, ma anche con assegno certi clienti hanno aperto il conto di deposito. IFIS, Giovanni Bossi, una domanda per lei. Un ascoltatore chiede se il vostro conto si apre solo con internet oppure se avete anche degli sportelli sul territorio. Abbiamo molte banca IFIS, ovviamente presente su tutta Italia, e ha sportelli sul territorio che però non sono abilitati ad operare sul conto deposito. Il nostro conto deposito ha la caratteristica di essere online. Esclusivamente online. E la vogliamo tenere così. È una scelta precisa, strategica, che la banca si è data, e manterremo questo profilo. Andiamo agli ascoltatori. Valentina da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ci dica. Allora, niente, io mi trovo proprio nella condizione, insomma, di dover capire come far sfruttare una somma che ho insieme a mio padre. Il caso vuole che, insomma, abbia cercato di spiegarmi proprio guardando il confrontaconti. E il prodotto che al momento mi sembrava più interessante, che era poi quello che veniva fuori anche da confrontaconti, era questo conto libero di questa banca che si chiama Private Bank. dove c'era il 4,60% sui vincoli, diciamo, sul conto a 12 mesi. Mm-hmm. Ora, loro innanzitutto dicono che io li ho anche chiamati, chiaramente per accertarmi, diciamo, delle condizioni, di quello che era scritto, eccetera. Dicono che, essendo un conto libero, è svincolabile in un giorno, quindi il giorno dopo loro restituiscono una somma con un bonifico e tra l'altro non c'è bisogno di aprire un conto corrente tramite loro, però diciamo l'interesse rimane quello del 4,60, però la garanzia diciamo della banca viene dalla Lituania, quindi non, diciamo, la garanzia per 100.000 euro viene dalla Lituania. Allora Valentina, adesso, a parte il fatto, le faccio una domanda così tanto per provocarla, no? Se questo per esempio è un aspetto che non la convince, lei non è disposta a rinunciare magari ad una piccola porzione di rendimento e magari andare verso una banca, sì, ecco, così per chiedere, assolutamente, no? Assolutamente sì, infatti è quello. O senza che nulla togliere a queste persone che non conosco, e ci mancherebbe altro, non ho nessun motivo di dubitare della loro affidabilità, infatti. È una domanda per lei. Però... sì. Aspetti lì un attimo, Valentina, che c'è Manfredi Urcioli che questa banca la conosce. Sì, io posso dire solamente una cosa: noi lavoriamo con questa banca. Il dubbio che molti consumatori possano avere qualche dubbio di fronte ad una banca così poco conosciuta e che comunque sia di diritto estero, lo abbiamo e lo abbiamo avuto. È comunque una banca che è autorizzata ad operare in Italia da parte di Banca d'Italia. E la garanzia offerta dalla Lituania, che però fa parte della Comunità Europea. Quindi questi sono due aspetti che vanno presi, che possono essere presi in considerazione. Poi io mi astengo da qualsiasi giudizio in merito. Però almeno abbiamo conosciuto qualche aspetto in più rispetto a questo soggetto finanziario. Quindi Valentina, insomma, come intende muoversi adesso? Quali altre domande ha per noi? Beh, adesso innanzitutto vedrò, però volevo chiedere quali sono, diciamo, le condizioni. Diciamo, che cos'è che dobbiamo andare a vedere per avere delle garanzie e per essere sicuri che diciamo nelle clausole di questi conti di deposito ci sia qualcosa, diciamo, che non va, perché ho trovato anche conti di deposito che poi scava chiedevano, diciamo, c'era una penale di interesse che alla fine poi andava a finire, diciamo, l'interesse come un conto di deposito. Magari, diciamo, la penale di interesse se si disinveste prima della fine, esatto, del vincolo, Valentina. Esatto. Beh, comunque lei intanto complimenti, perché è tutt'altro che sprovveduta, quindi va a guardare sicuramente. Cominciato a farmi una... vabbè, insomma, bene, bene, così ci fa piacere. Valentina, allora adesso le faccio fare una trattativa sia con Egisto Franceschi di Banca Sistema che con Giovanni Bossi di Banca IFIS. IFIS, cominciamo con lei, con Bossi. Allora, Valentina si è fatta un po' di domande, ma secondo lei, per una persona che non ne sa molto ma che comincia ad esplorare adesso il mondo dei conti di deposito, adesso a prescindere dalla promozione del suo prodotto di Rendimax, come risponderebbe alle obiezioni della nostra ascoltatrice? Garanzia, semplicità, io non credo che sia giusto o che sia ragionevole ipotizzare che tutti i risparmiatori vadano a guardarsi i bilanci delle banche nelle quali deposito. Questa mi sembra una cosa un po' esagerata. Aggiungo però che le banche italiane sono protette, solide, stanno bene. Dal mio osservatorio non mi occupo solo del conto deposito, mi occupo un po' di altre cose per ruolo, vi assicuro che non assisteremo a default di banche italiane con conti deposito. Credo che l'ascoltatrice non avesse paventato scenari di questo tipo, infatti, po' più modesti. Lo ammetto, ma li ha paventati. Io credo che l'orientamento per l'ascoltatrice sia guardare la semplicità e l'operatività. Oggi i conti deposito offrono rendimenti interessanti, ci sono delle differenze, 10, 20, 30, 50, 0,20, 0,30, 0,50% di differenze, però resta il fatto che poi bisogna anche muoversi, usare il conto, avere un sito web che si presta a essere maneggiato con tranquillità, avere un conti vincolati con alti rendimenti, ma anche i conti liberi con alti rendimenti. Fare attenzione alle offerte promozionali, ci sono molte offerte promozionali che hanno una durata limitata, certo, il cliente ad arrivare sul conto di una certa banca e che però poi dopo 3 mesi scadono e l'assunzione che la banca fa è che il cliente magari non si accorge che è scaduto e lascia i soldi a rendimenti molto bassi. Quindi si tratta di costruire un rapporto di fiducia con una banca. È evidente che il rapporto di fiducia con la banca lo si costruisce meglio con quella banca che dialoga con te in maniera più continuativa, secondo me. Certo. Io ci metto anche un'altra cosa, che è quella magari alla quale molto spesso non si pensa, ma non quando solamente si vuole sottoscrivere un conto di deposito, ma questo vale anche per la sottoscrizione di qualunque altro tipo di prodotto di investimento, è che magari non si fa una pianificazione chiara di quando si avrebbe bisogno di quel denaro che si investe. Questo vale anche, non so che cosa ne pensa Egisto Franceschi, per il conto di deposito. L'ascoltatrice dice: ho una certa somma che devo gestire con il mio papà. Magari deve pensare a che cosa servirà questo denaro, se può ritenere di poterlo tenere bloccato per un anno, per 18 mesi, o se pure le serviranno fra 6 mesi questi soldi. Quindi anche da lì poi dipende la scelta del vincolo, ad esempio. Esatto, cioè la prima cosa è, a parte assicurarsi che ci sia la garanzia del fondo interbancario, tutela dei depositi, così la somma è garantita, ma pensare a che durata uno pensa di aver bisogno e magari cercare un conto che permetta comunque un po' di flessibilità. Quello di Banca Sistema, per esempio, è vero che non riconosce gli interessi se uno svincola prima, però non riconosce gli interessi solo sulla parte svincolata. Quindi se uno ha vincolato 10.000 euro e decide ne ho bisogno 1.000 adesso, non verrà remunerati gli interessi sui 1.000 euro, ma sugli altri 9.000 assolutamente. Valentina diceva di aver anche individuato delle sorti di penali per chi decide di svincolare in anticipo gli importi. Ma allora non posso parlare per tutte le altre banche. Noi non siamo a zero spese, il capitale non viene mai intaccato in nessun caso. Si possono perdere gli interessi sulla parte svincolata in caso di svincolo anticipato. Urciuoli, ci sono banche che prevedono la penale addirittura per il disinvestimento anticipato, oltre che la perdita dei potenziali interessi? Sì, ci sono delle banche, sono poche, però esistono. Che ci tipo di penale applicano? Sono penali abbastanza limitate, ridotte, l'1% al limite. Sono poche le banche che applicano questa penale. Ci sono anche banche che non consentono lo svincolo. Addirittura. Quindi, vabbè, d'altronde forse è meglio la penale, non lo so, dipende dalle esigenze degli utenti. Deve mettersi lì, fare un po' di conti, perdere un po' di tempo. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Vorrei sentire la simpatica Mariuccia da Varese. Mariuccia, buongiorno. No, sono un'affezionata cliente della radio io. Una cliente. E lei fa le trasmissioni di 2 ore in 3/4 d'ora. Perché io parlo più velocemente, vero Mariuccia? Lo so, me l'avete detto un sacco di volte. Comunque abbiamo già parlato diverse volte. Io stavo proprio mezz'ora fa, sono tornata dalla banca, adesso mi sono un po' inviperita. Perché avevo dei titoli che mi scadevano e ero partita così con l'idea vaga di fare questo conto deposito. Poi sono arrivata lì, le due funzionarie mi hanno intortato un po' su e mi hanno fatto fare... L'hanno piazzato un'obbligazione, no Mariuccia? No, del... aspetti. Dunque, uno è un fondo che mi dà il 3,50% lordo, però lo posso disinvestire quando voglio, perché io ho 75 anni, se passo a miglior vita i miei figli Ma guardi, non la vedo proprio su questa prospettiva, Mariuccia. Detto questo, senta, mi dice che banca era? Perché è la UBI Banca di Bergamo, Credito sì, Varesino. Sì, conosciamo, va bene. Credito Varesino, Banca Popolare di Bergamo. E poi mi hanno fatto fare, sempre, siccome mi è arrivato il profilo che io sono... una risparmiatrice prudente, aggressivo, addirittura la mia età, vabbè, l'ho fatto con i dati che abbiamo, il risultato ancora così si vede che la MiFID decretava questo. Comunque l'altro invece è l'UBI-SICAV, dove l'UBI-SICAV, che ha sede in Lussemburgo, e anche questo qui mi pare che ha... Ma lei perché si è inviperita con la banca? Perché non le hanno detto... Mi sono inviperita perché ero partita con questa mezza e vaga idea. Adesso sono tornata, ho sentito, perché ho detto, ma quasi quasi faccio un fondo, metto sul deposito, lo vincolo, tanto dico, non è che mi servono per adesso, però se mi capita che mi viene l'Alzheimer, almeno servono per il ricovero. E allora invece, cavolo, questi qui però... D'accordo, hanno una scadenza di 5 anni, spero che i miei figli li riescano a realizzare anticipi nel loro. Allora, però Mariuccia, insomma, lei è andata lì, ha chiesto qualche informazione, chiesto, mi dite come funziona. Datemi qualcosa, mi fa, ma adesso insomma di cose sicure non ce n'è più. Allora non contenta di una funzionaria, ho parlato con un'altra, la quale è ovvio non ha smentito, però insomma fino adesso mi sono trovata bene con questa ragazza. Sì, però insomma l'idea è che lei ha chiesto una cosa è andato tutt'altro, ecco. Conto deposito, ho detto ma va che scema, potevo andare già proprio con le idee chiare e mi tenevo il conto deposito fermo anche per 2 anni, ringraziando Dio non penso di averne bisogno. e invece vabbè, d'altra parte grazie, i vostri consigli servono sempre, terrò presente per le prossime scadenze. Grazie Mariuccia, intanto le complimenti. Mando un augurio, lei le dico che è un tesoro. Lei è molto simpatica Mariuccia, il tesoro è lei. Devo dire che almeno questa banca non ha problemi di liquidità, perché se riesce a distribuire i fondi, cosa che le banche non fanno più perché vogliono invece liquidità abbondante dei propri clienti, anche questa è una storia originale da raccontare. Inutile starvi a raccontare che il caso della nostra Mariuccia ci ha divertito molto, ma anche molto interessato per gli aspetti che sono usciti dalla conversazione con questa simpatica ascoltatrice. Intanto abbiamo ricostruito che UbiBanca non ha un conto di deposito esclusivo esattamente come quelli di cui stiamo parlando questa mattina, Manfredi Orcioli, confronta conti. No, esattamente, quindi gioco forza, interesse della banca era cercare di dirottare la cliente verso altri prodotti, del tutto legittimo, sono prodotti alternativi, concorrenti, non perfettamente identici rispetto a un conto di deposito. No, però è anche strano che non gliel'abbiano detto chiaramente, noi non abbiamo il conto di deposito. Beh, però comunque c'è stato un confronto abbastanza tranquillo, insomma, si è sempre trovata bene, quindi chiaramente hanno cercato di servirla al meglio. Giusto Franceschi, Banca Sistema, che pensa del caso che abbiamo ascoltato? Ma io credo che chiunque vada per mettere i suoi risparmi o investire in qualche cosa debba prima informarsi, che sia tramite giornale, che sia tramite la radio, che sia sull'online in certi casi, almeno per avere qualche idea, perché poi chiaramente quando ci si trova di fronte a qualcuno che propone delle soluzioni, almeno o si ha un punto di vista più obiettivo su quello che si vuole fare, come si vuole investire i propri soldi. Allora, si conto il vostro prodotto di punta, quanti vincoli prevede, quante opportunità di vincolo? Vedo che non avete neanche un investimento minimo da sottoscrivere. No, noi non abbiamo investimento minimo, abbiamo scadenze che vanno dai 3 mesi fino ai 36 mesi in quindi questo 3 momento. Anni. Tre anni, e vediamo che tutte le scadenze sono molto interessanti. Noi abbiamo lanciato il 30 e 36 mesi tre mesi fa e abbiamo visto che tanti clienti l'hanno preso, sono molto interessati, gli piace poter parcheggiare lì i soldi e avere un rendimento certo per tutto questo periodo e non doversi preoccupare dei soldi. Alan da Pordenone, poi vado di nuovo a Banca IFIS. Alan, buongiorno. Sì, buongiorno. Perdonatemi la voce, che è quella che è. Pazienza. Sembra un grosso spot gratuito quello che sto dicendo, ma Michela, ci ho messo 2 anni per capire dove mettere qualche gruzzoletto, qualche risparmio, per evitare di farmelo mangiare. Sono andato dalla banca in cui sono cliente da più di 20 anni, mi hanno proposto tutta una serie di investimenti che sembravano, così dicevano, molto simili al conto di deposito, come sottostante non avevano nient'altro che azioni, obbligazioni e via dicendo. Dopo 2 anni ho cercato in internet e ce l'ho fatta, sono in un conto di deposito, uno dei due vostri ospiti è quello che ha i miei soldini, mi trovo terribilmente bene, l'ho fatto aprire anche a mio padre, ho provato tutte le tipologie di conto che ha, i like piuttosto che tutte le tipologie che hanno, funzionano bene quando li prendi e quando li togli. E l'unico problema ce l'ha avuto mio padre, nel senso che gli ho detto: papà, io mi trovo bene, lo facciamo anche con te. È andato in banca, la sua solita come la mia, che siamo clienti da più di 20-30 anni, per spostarli, gli hanno fatto un'offerta che non si può rifiutare, aveva come sottostante delle obbligazioni bancarie. Ecco qua. Ho mandato, ho fatto il putiferio, ma ormai le avevano bloccate per 2 anni. Il blocco per 2 anni è inferiore a quello che mi dà il mio conto di deposito per 2 anni. Quindi Alan, grazie molto per la sua testimonianza. E beh, anche lì, insomma, non so che dire veramente. Bisogna andare qualche volta con l'armatura, lo scudo, la lancia per discutere con il nostro direttore di banca, che anche se, come dire, dimostra la massima comprensione delle nostre esigenze, alla fine un po' ci prova. Vabbè, detto questo, Alan si trova bene con i conti di deposito. Quello che a noi interessa capire stamattina anche Giovanni Bossi, Banca IFIS, è quanto saranno sostenibili i tassi che proponete voi, così come le altre banche che appunto presidiano questo segmento, perché effettivamente sono molto alti a fronte di un mercato interbancario che invece viaggia su la Banca Centrale Europea allo 0,75%. tanto chissà che non li abbassi ulteriormente, per cui rispetto a 4-5 anni fa, quando appunto l'interbancario era volato alle stelle e ne risentivano tanto i nostri mutui, adesso siamo in condizioni completamente diverse. Come si fa a riconoscere un rendimento così alto? Qualche ascoltatore ce lo chiede. E quanto si potrà ancora continuare a mantenerlo? Guardi, ad oggi lo avete scritto sul Plus di sabato, l'abbiamo detto prima, c'è una competizione forte tra banche, tra operatori, e siamo tutti quanti molto concentrati a cercare di dare il massimo, chi è presente sui conti di deposito, a dare il massimo al cliente. I risultati sono agli occhi di tutti, viaggiamo, oggi l'Euribor, ammesso che l'Euribor sia un tasso di riferimento, è lo 0,25%, e noi stiamo pagando alla nostra clientela, perché va bene così, fa parte del gioco, stiamo pagando 3,5%, 4% più dell'Euribor, quindi sono tassi veramente molto significativamente alti, molto alti. Io ho la sensazione che questi tassi resteranno alti fino a quando la situazione economica generale, che non mette in difficoltà le banche, ma che le costringe a fare queste offerte, continuerà a restare questa. Quindi fino a quando ci sarà tensione, squilibri sui mercati europei, sul mercato europeo, squilibri all'interno dell'area euro, ecco, io credo che fino a quel punto noi continueremo ad avere un mercato dei conti di deposito che sarà interessante per i risparmiatori, quindi con elementi molto buoni. Più in là verrà un momento in cui questi rendimenti, quando la situazione economica si normalizzerà, verrà un momento in cui questi rendimenti diventeranno eccessivi. In quel momento sarà opportuno che le banche che oggi hanno grandi raccolte fatte con strumenti tipo conto deposito, io ritengo, questo è quello che stiamo facendo noi, ritengo che è giusto cominciare a dare ulteriori servizi ai clienti, e quello che abbiamo fatto noi, ascoltando ancora una volta i clienti che ci hanno risposto in 12-13 mila, dicendoci hanno descritto un conto corrente, quindi un conto con i servizi a bordo del conto corrente basico, si intende, e ci hanno spinto fortemente a partire con una specie di nuovo prodotto che si chiama Contomax, che partirà alla fine dell'anno e che avrà a bordo tutti i rendimenti di Rendimax, ma in più avrà anche la possibilità di essere usato come conto corrente gratuito. Quindi state già cercando di capire come planare sul morbido quando i rendimenti si dovranno un po' ridimensionare, offrire qualcos'altro alla clientela. Io ho 40 secondi di tempo, un commento su tutto questo volevo farlo fare anche a Franceschi di Banca Sistema. Remunerazioni a suo avviso ancora quanto sostenibili su questi livelli? Poi c'è una domanda di Enzo da Bergamo, gliela faccio fare in privato perché era una cosa su Sistema. 20 secondi. Beh, premesso che noi abbiamo in questo momento i tassi più alti del mercato su quasi tutte le scadenze, pensiamo che ci sarà un riallineamento un filino verso il basso, potrebbero esserci degli aggiustamenti, ma se noi dovessimo fare, comunque lo annunciamo in anticipo, così e comunque riguarderanno i nuovi clienteli, chi ha già nuovi dei vincoli clienti, su questi chi ha livelli già dei vincoli, per loro non viene toccato, nulla, non certo. È retroattivo. Certamente. Assolutamente. Benissimo, buon lavoro a tutti, grazie anche a Manfredi Urciuoli appunto per confrontaconti.it. vedremo oggi quanti andranno a caccia di informazioni sui nuovi conti di deposito e le remunerazioni recenti. A tutti buona giornata, domani. We'll be right back.